Allora, mi hai parlato poco fa della tua esperienza con la voce, del fatto che tu adesso stai facendo dei corsi sulla voce che durano anche più di un anno, 2 anni, 3 anni. Fai una seduta alla settimana di 1 ora e mezza e conduci quindi un gruppo nelle varie fasi dell'esplorazione di come, partendo dall'improvvisazione vocale, questo gruppo evolve verso un uso della voce che lo porta verso una scoperta del vero sé profondo. Quindi è qualcosa che a me interessa molto. Io ho lavorato parecchio con la voce nei gruppi di improvvisazione, ma non ho mai fatto questa esperienza di anni e quindi sono particolarmente interessata a capire cosa succede quando la stessa esperienza la si ripete sistematicamente con le stesse persone per così tanto tempo. E quindi mi piace, adesso sentiamo, poi via via ti faccio le domande così io faccio per capire io, poi penso che se poi avete delle domande voi me le fate anche voi del gruppo. Ecco. Ok, prego. Diciamo che quest'idea è nata proprio dal fatto che Tieniti questo così senti anche loro. durante le improvvisazioni strumentali, ancora quando ero corsista al corso di musicoterapia, si parlava molto di improvvisazione strumentale, delle dinamiche strumentali, eccetera, eccetera. Eppure ogni volta quando compariva una voce all'interno di queste improvvisazioni cambiavano tutte le dinamiche. E questa cosa mi ha incuriosito tantissimo, per cui ho detto perché non provare a fare un percorso, a sviluppare un percorso semplicemente vocale. E da lì è partita una ricerca. Per questo motivo, ripeto spesso, sono grata alla voce e alle voci, proprio perché la voce di per sé guarisce. Nel senso che nel suo divenire voce di gruppo fa sì che l'essere si affidi a lei. E conseguentemente in questo fidarsi della voce, la persona ritrova il sé e il gruppo ritrova il sé. Potrei definire proprio un sé universale. Diciamo che questo è il fine di questo percorso. All'inizio, nelle prime fasi, il gruppo scopre una voce. Deve ancora scoprire una voce di gruppo, quindi c'è ancora l'individuo, potremmo definire proprio l'ego di ciascun componente. Premetto ancora una cosa, che questo percorso è costituito da brevi esperienze che portano ciascun partecipante ad ascoltare se stesso e ascoltare gli altri. E tra l'altro molte esperienze vengono fatte proprio ad occhi chiusi, proprio perché questo elemento elimina il giudizio dall'inizio. E comunque queste esperienze si basano su un gioco. Metto come fondamento il gioco perché il gioco mette in gioco. E il gioco crea relazione. Dal gioco impariamo a vivere da bambini proprio. Di conseguenza, appunto, queste brevi esperienze poi portano all'improvvisazione vera e propria. E quindi le improvvisazioni vere e proprie inizialmente sono costituite ancora dal verbale, cioè si sente anche se le persone vocalizzano verbalmente, si può sentire proprio è come se parlassero. Quindi le prime improvvisazioni sono caratterizzate da domanda-risposta, domanda-risposta. La cosa interessantissima in queste prime improvvisazioni è che la voce, per effetto proprio regressivo, anche molto forte, ci porta ad ascoltare delle fattorie intere, per cui, non so, le persone incominciano, beh, quell'altro, mo, eccetera, no? Quindi è interessante questo passaggio, perché inavvertitamente la persona si ritrova ad essere bambina, si ritrova ad imitare un animale, si ritrova ad imitare, a fare anche dei suoni molto potenti, e di questo ancora non è cosciente. Percepisce comunque ciò che gli arriva, percepisce una voce che è diversa dal consueto, sicuramente, abituati come siamo a verbalizzare, verbalizzare, verbalizzare, capire, capire il suono, verbalizzare, eccetera. Allora, successivamente in queste improvvisazioni succede che il gruppo incomincia a trovarsi e da un'esperienza di conoscenza le persone entrano in contatto e da questo contatto entrano in una fase veramente di gioco ed è la fase divertente dove appunto le persone anche chiedono spesso di creare il CD. Perché non facciamo un CD insieme? Dai, che così bello! Ecco, per cui in questo gioco le persone scoprono che la voce ha un potere aggregante e comunicativo fortissimo. Per cui ogni componente vorrebbe andare avanti ancora, ma come, finisce già qui? Ma no, non è possibile, andiamo avanti. Per cui nelle improvvisazioni successive le persone vorrebbero proseguire con lo stesso gioco ed è la voce stessa che dice no, guardate che non è possibile. Cioè, le persone vorrebbero ripercorrere lo stesso gioco. Questo è impossibile, perché il qui ed ora è fatto di qui ed ora e quindi abbiamo bisogno di proseguire nel nostro percorso di crescita. Di conseguenza, è proprio la vocalità che emerge da queste improvvisazioni che esclude quella possibilità. Per cui ne consegue anche una grande disfatta per il gruppo stesso, cioè il gruppo è proprio arrabbiato anche nei confronti di questa vocalità che emerge in questa maniera orripilante. Ma come, la volta scorsa ci eravamo così divertiti e questa volta no. È così, è una, potremmo dire, una dura realtà che tanto dura non è, cioè nel senso che nelle fasi successive le persone scoprono un altro elemento essenziale, molto molto importante all'essere, cioè non è necessario che tutti noi stiamo attaccati l'un con l'altro e giochiamo e facciamo lo stesso gioco e sempre continuiamo a fare sempre lo stesso gioco per divertirci. Noi possiamo essere individui, ascoltare il nostro sé più profondo e in questo modo comunicare a un livello superiore e quindi ci si avvia verso la fase conclusiva del percorso dove la persona finalmente sente la propria voce, l'importanza della propria voce all'interno di un gruppo, quindi è importante ogni voce nel gruppo perché ogni voce arreca è veramente qualche cosa di splendido proprio per il gruppo e quindi ogni voce è importante ed è una voce potremmo dire proprio angelica, ecco, e quindi una voce dell'anima per cui le persone comunicano a un livello superiore. Queste ultime improvvisazioni sono caratterizzate veramente da suoni altamente creativi e suoni veramente che fanno venire la pelle d'oca, cioè nel senso che sono di una semplicità unica. Questo è quello che in questo lavoro mi ha indicato proprio anche la voce, la semplicità, cioè non servono tante cose, non serve una tecnica, non serve una Sì, non servono tante situazioni, tante cose. La nostra voce di per sé ha una semplicità eccezionale, e in quella semplicità si esprime l'essere per tutto se stesso, insomma, al completo. E questo elemento è fondamentale, perché ci indica la strada verso un'autoguarigione, potremmo dire. Cioè, nel senso che ogni persona è in grado, se si mette in ascolto anche di se stessa e delle altre persone, di trovare questa strada. E la trovo eccezionale, ecco. Sì. Molto chiaro quello che dici. Sì. E ricordo appunto le esperienze sulla voce, in cui quando conducevi i laboratori d'Assisi facevamo 2 o 3 in 15 giorni di questi incontri sulla voce, non di più, e vedevo dei cambiamenti ovviamente. E ti ricordo anche la fase della fattoria, passa regolarmente. La fase proprio della regressione a suoni assolutamente che producono normalmente i bambini quando giocano. Ecco. E poi ci sono delle fasi di conflitto, ci sono a volte le fasi leadership, c'è qualcuno che tira di più, qualcun altro di meno, ci sono fasi di maggior ascolto, di minor ascolto e così via. Quello che ho sempre notato che l'importanza, perché la cosa importante perché un gruppo come questo funzioni, è che chi conduce aderisca davvero a una visione paritaria delle persone, non abbia una visione gerarchica, che abbia una visione proprio di profondo rispetto per tutti e di fiducia totale nelle risorse delle persone. Perché effettivamente, così come accade nel corpo, io adesso sposto dal corpo e vado al movimento. Uno dei movimenti che funziona meglio, che produce più risultati in assoluto al mondo, è il movimento rigeneratore o il movimento autentico, che sono movimenti che accadono da soli, cioè la persona si mette lì, non ha nessuno schema, funziona, il corpo si autoguarisce. Quindi abbiamo dentro di noi un principio di autoguarigione, che avviene attraverso la voce, attraverso il corpo, attraverso il disegno. L'importante è che non ci sia il controllo da parte della mente conscia, cioè dalla parte della mente condizionata. Quando tu parli di queste esperienze, in quelle esperienze si vive in una situazione di cosiddetta di flusso, che è studiata dalla psicologia della creatività, il flusso è una situazione che assomiglia molto a quella meditativa ed è tipica delle persone autorealizzate. Le persone autorealizzate vivono in stato di flusso, cioè sono totalmente presenti nel qui ed ora. Se stanno parlando, parlano, non pensano mentre parlano. Se stanno ascoltando, ascoltano. Se lavano i piatti, lavano i piatti. Se vanno a fare la spesa, fanno la spesa. Se cantano, cantano. Non fanno cose che non c'entrano una con l'altra, che interferiscono. Allora, nello stato di flusso cessa il dialogo interno, i commenti della mente razionale finiscono. Non ci si preoccupa dei risultati, non ci si occupa della meta, si vive totalmente nel presente. Non si sentono i bisogni fisiologici, non si sente la stanchezza e nemmeno ci si stanca. Uno stato di flusso tu puoi lavorare anche parecchie ore. E non accorgetevi, perché non c'è sforzo. Nello stato di flusso le nostre qualità sono espresse pienamente, ma non si è in difficoltà, si è al limite, non in difficoltà. Bene, lo stato di flusso è uno stato di tipo meditativo, in cui sei veramente nel qui ed ora. Nei termini nostri, è uno flusso che apre al mondo dell'anima. Quando questa avviene in gruppo, la cosa diventa potentissima, perché il gruppo diventa una base sicura, cioè io mi apro, ma perché ti apri anche tu, si apre anche lei, allora non, sparisce completamente il giudizio. Cioè, il tema di oggi, la prima ora che abbiamo fatto oggi, ecco, quello se ne va. E quando si riesce a creare un contesto di non giudizio e di libera espressione di sé, quella è terapeutica, è una cosa straordinaria. Tra l'altro, per quello che ho visto io, cambia quel timbro delle voci. Quando una persona pratica quello, pian pianino cosa succede? Siccome si genera un rilassamento delle tensioni, la voce pian pianino si armonizza sempre di più. Non c'è bisogno di fare degli esercizi di rilassamento, avviene da solo questo. Ecco. Allora, questo contraddice tutta la nostra modalità didattica di tutte le scuole che abbiamo frequentato. Cioè, le cose avvengono se ci si mette nella condizione di lasciarle avvenire. E quindi quell'insegnamento che stai portando in giro è preziosissimo, è veramente prezioso, e quindi ti auguro di fare il più possibile di questi gruppi e che tu possa proprio vivere piena di soddisfazione, perché non potrà che arrivarti, perché hai scelto una via che è assoluta. Poi la voce, capite, è l'espressione più profonda della persona, mentre lo strumento tutto sommato ti puoi nascondere dietro, no? Con la voce sei esposto, sei in diretta. È diretto e quindi sei denudato, non hai bisogno di fare tantra, non c'è bisogno che ti denudi davanti ad altri, perché con la voce lo sei già. E questi aspetti sono, e lì si tocca un livello del sacro, cioè qualcosa che è oltre. È bellissimo, tu esci da una scuola che queste cose non le prevede, non, la scuola di Benenza non vede queste cose qui, ma poche scuole le vedono in effetti. Per chi frequenta mondi come quello della psicosintesi è molto chiaro quello che fa lei, si passa dalle sue personalità alla parte dell'io e poi alla parte del sé superiore e poi dal sé universale. Per le scuole di psicologia che non considerano le ultime due dimensioni è chiaro che queste cose non sono altrettanto interessanti, ma io credo che tu invece te la sei trovata da sola, ci sei arrivata e quindi hai avuto un'intuizione. Quindi un'intuizione dell'anima, sì. E credo che ti possiamo fare tutti gli auguri possibili nostri perché tu possa avere sempre più soddisfazione in questa cosa. Grazie. Prego, ci sono delle domande? Avete delle domande da fare su questo? In che senso si tende nel gruppo a ripetere sempre lo stesso gioco? Intendi proprio la stessa, gli stessi motivi o piano? Gli stessi motivi. Cioè, appunto, facevo prima l'esempio di un gruppo che nella fase di gioco, dunque, l'improvvisazione era partita proprio con un leitmotiv che faceva po po po po po po po po po po po po. E dopo, tra un leitmotiv e l'altro, queste persone si sono sbizzarrite in mille modi, con un'energia fenomenale proprio, potentissima. La volta dopo hanno cercato di riprodurre po po po po po po po po po po, e il seguito era proprio un disgusto. Il disgusto. Ho fatto un esempio proprio chiaro perché non è possibile riprodurre, cioè veramente siamo esseri creativi e quindi la voce stessa ci indica che non possiamo permetterci di fermarci là, se possiamo fare anche qualcos'altro. Allora, la cosa interessante è questa, che man mano che si procede in questo percorso, mi riallaccio appunto al discorso del giudizio. Le prime verbalizzazioni successive a queste improvvisazioni sono, cioè, si parla tanto, si critica, si giudica, si fa di tutto. Le ultime, le persone dicono non serve parlare, non vogliono parlare. Quindi è così. Grazie. Bene, grazie. Bene. Grazie.